fare tutta la... Ristoradio Convento, per raccontarsi, per raccontarti. Ristoradio Convento, la web radio del nostro locale, il convento di Nonato del Garda. Benvenuti o bentornati, se già ci stavate seguendo, magari avete appena acceso il vostro apparecchio. Se l'avete fatto, sappiate che abbiamo qui con noi un nutrito gruppo di ragazze. Come dicevo all'inizio di ogni serata, il sogno di ogni essere umano maschile, perché sono tantissime. Quante stasera? Una ventina quasi, secondo me, no? 18, vedi? 18, vengono tutte, immagino, sì, da Verona, zona Verona, veronese, e sono scese che sembravano delle, come dire, ballerine hawaiane, perché hanno questo vestito coordinato, tutte con la canottiera nera e il tipico gonnellino hawaiano. E questo per festeggiare una serata importante, e soprattutto la protagonista di questa serata, che non so cosa ha a che fare con le Hawaii. Lo capiremo se c'è qualcosa a che fare con le Hawaii. La presentiamo, come ti chiami? Io sono Chiara e non ho niente a che fare con le Hawaii, sono vestita da manga hot. Lei invece è il manga hot, quindi immaginatevi un gruppo di una ventina di ragazze, 19 vestite da hawaiane e una da manga hot. Cosa c'entra il manga hot con le Hawaii? Che nesso c'è tra le due cose? Dobbiamo ancora capirlo. Beh, avete ancora un'oretta e mezza di tempo, visto che chiudiamo alle 3:30, potete farcela. Stiamo pensando di capirlo. L'importante è che abbiamo appena vinto un po' di drink alle slot. Sì, è andata bene? No, è andata bene, vedi, la fortuna vi sorride, questo è una bella cosa. Allora, cosa stai festeggiando questa sera con noi, Chiara? Sto festeggiando il nostro Dio, il mio Dio. Il nostro, vedi, cioè già allargato, ha coinvolto tutte voi, o spera che vi sposiate tutte, o magari qualcuno... Sì, vedi, è buona, è generosa. Allora, no, il suo addio al nubilato, quando ti sposerai e con chi? Il 14 settembre con Matteo. Oh, con Matteo, ci siamo, quindi manca veramente poco. A proposito di manga, perché sei vestita da manga? Ti piacciono? Io sono amante del Giappone, in realtà. In genere, tutta la cultura giapponese. Ma sei già stata là? No, l'anno prossimo andremo. Hai già pianificato? Hai già messo, come dire, in agenda la visita. E cosa ti piace della cultura giapponese? Un po' di tutto, e in particolare che hanno molti sexy shop. Beh, vai a Amsterdam, scusa, senza andare fino... Sono meglio in Giappone. Sono meglio in Giappone? Sono più avanti. E cosa vuol dire sono più avanti? C'è molto più cose. Sono più aggiornati? Hanno... Sì, perché sì. Non ne fanno molto. Cioè, scusa, solo per quello? Io voglio diventare amico di questa ragazza subito, perché è una persona interessantissima con cui uscire e scambiare quattro chiacchiere. Cioè, io la prima... In quel senso hanno molto da dire. Hanno molto da dire, bene. No, e la prima persona a cui dico cosa ti piace del Giappone mi risponde i sexy shop giapponesi. È bellissimo, c'è una analisi originale e particolare del Giappone, e ho paura adesso a chiederti perché ti piacciono i manga. No, ma non è che mi piace i manga in particolare. Ah, ok, quindi non... Ah, ok, non segui. Ecco, bene, vedi, mi piace l'originalità di questa ragazza. Di solito tutti dicono che sono dei roiti finiti e nessuno ama i giapponesi, e lei invece ama i giapponesi. Ma ti sposi un italiano. Un italiano. Veneto, veronese. San Giovanni d'Arione, per precisione, quindi proprio... Nulla a che fare con i giapponesi. No, no, no. E lei cos'ha di così speciale da farti dimenticare i giapponesi? È tutto al contrario, è quello il problema, è proprio l'opposto in questo. Quindi perfetto il detto degli opposti che si attraggono, Si svolge le tue spalle. No, però voglio rivederlo. Vorrei rivederlo. Alessandra, puoi ripetere per favore? Non ti sente, meno. Non ti sente. Rifai. Di nuovo. È così? Un'altra volta per favore. Ah, questo è molto interessante. Aspetta, ho uno svenimento. Ok, mi sono ripreso, ho avuto qui in diretta un calo di... molto interessante. Sì, ho avuto un calo di zuccheri. Stefanuccio, e ho avuto un calo di zuccheri veramente importante. Vabbè. Va bene. Qui amici, non preoccupatevi se siete adesso in diretta, ancora ascoltando, non cambiate. Grazie, grazie, perché ora ho capito perché si è sposata un veneto sognando un giapponese, perché mi ha chiamato Stefanuccio e Stefanuccio è di là. Quindi evidentemente anche il suo futuro marito lo immagina tuttora giapponese. Vedi Stefanuccio? È di là Stefanuccio. Ma vabbè, Stefano, Stefanuccio, come ti chiami? Nicola è un'altra cosa. Ma Nicoluccio è il numero uno, mi raccomando, è meglio dei Io giapponesi. La adoro, questa ragazza la adoro veramente. E i giapponesi hanno nulla a che che fare, cioè veramente venire al convento solo per Nicoluccio, il Giappone lasciatelo stare, amico. Io l'adoro, sono pazzo di questa ragazza, è bellissimo. E ti sei resa conto, vero, che il tuo futuro marito è veneto, no? Sì. Ok, bene, no, era un controllo, perché se cambi l'identità qui dentro e siamo in due, se sogni di conoscere un giapponese e ti sposi un veneto, magari ti sei sbagliata e pensi a tutt'oggi che sei un giapponese, no? Queste cose non sono registrate. Sì, tutto. Tutto. È già in questura, tra l'altro, anche, cioè è già arrivato alla questura e al prete che celebrerà le nozze. No, sì. È l'unico che non devi sentire nulla. No, ma gliel'abbiamo già mandato. Sì. Guarda, gliel'abbiamo già mandato direttamente, mi ha appena mandato una mail, ha deciso di sposarsi e di togliersi i voti dopo aver sentito questa cosa. Quindi hai. Sono molto tranquilla. Sì, assolutamente, no, ma io sono assolutamente, mi fido. Luisa voleva vestirsi come me, mia mamma, quindi era serenissima. E chi è la Luisa? Mia madre. Ah, ok, infatti ha tirato fuori una Luisa dal nulla. Luisa mi è stata illuminata dal mio piano. Ok, ok, ok. E a proposito, raccontaci un po' delle tue amiche e compagne hawaiane. Dai, ce le vuoi presentare? Amica a tutti i punti, hawaiana del lavoro, hawaiana dell'infanzia, hawaiana del fidanzato, di parenti, hawaiana della scuola, hawaiana di tutti i cantoni. L'importante è che è sentirselo dentro, non è essere hawaiane, è uno stato d'animo. Dove ci si arriva. Certo. È proprio uno stile di vita l'essere hawaiano. E come descriveresti lo stile di vita hawaiano? Cioè come diventi hawaiano dentro? Io, cioè che caratteristiche devi avere? Me lo vedo. Non dirmi giapponese, se no ti mando fuori. Ah, ok. Se mi dicevi un hawaiano me lo vedo giapponese, uscivi. Vai. Hawaiano me lo vedo sereno, che non lavori e che viva per la sopravvivenza e che paga sempre da bere l'amica sposa, e quindi cos'è, un concorrente alle Isole dei Famosi praticamente, no? Ah, bravo, quello che stavo facendo è essere hawaiano. Ah, ok, in quel senso, quindi queste caratteristiche rientrano nell'essere hawaiane perfette. Perfetto, quindi se anche voi all'ascolto avete queste caratteristiche, siete di Bari, Napoli, Milano, Trento, qualsiasi città, ma avete queste caratteristiche, potete descrivermi come hawaiani. Sì. Giusto, più o meno questo è il... Sì, no, perfetto. È il riassunto. È il riassunto della cosa. Vai, ce lo vuoi presentare a questo punto? Vuoi dirci come si chiamano? Chi sono? Presento Silvia Carta e poi... Che è la sorella di Marco. Marco, okay. Carta, sì. È la nipote. Ma Marco ha fatto un... No, beh, tanto l'ha letto su tutti i giornali, con le maglie. Cosa che non si capisce cosa è. Ma lei non è parente di Marco. Non è parente di Marco Carta, peccato. È migliore. Abbiamo quello di Chiara Dusi, è alta come me, ha gli iniziali come me e si è fidanzato l'iniziale come il mio fidanzato. No, siete, cioè, vedete, separate alla nascita, esatto. Sì. Cloni di voi stesse. Dopodiché abbiamo Elena Marcazzan, ha lo stesso cognome del mio fidanzato. Chissà perché. Magari sono anche parenti, può essere. Pensa a te, la vita a volte che come il destino possa unire le persone, incredibile. Cioè due persone con lo stesso cognome sono parenti. È incredibile. Cioè sono delle scoperte. Cioè Piero Angela non sai nulla. Piero Angela non sai nulla. No, perché mi scaldo. Si è accesa su Piero Angela. Piero Angela, devi tornare a scuola. Devi tornare a scuola. Sei un figo e il tuo figlio Angela è un numero uno. Angelo, secondo me, cara la mia Chiara, tu sei una persona stupenda, splendida e fantastica. Devi andare a lezione serale di nomi, perché hai un po' di difficoltà con le identità. Cioè io farei un corso serale per recuperare. Albi è il mio migliore amico, non preoccuparmi. Sì. Albi. Non Angelo, ok. No, Albi. Albi. Poi vai avanti, prossimo. Marcazzan, che chissà come mai ha lo stesso cognome di quella prima, quindi può essere che non è il suo cognome. Io veramente, io la Alighieri, Sara Alighieri, io la prossima lettera che scriverò a Babbo Natale non chiederò nulla, scriverò una sola riga e dirò: caro Babbo Natale, io voglio vivere un'ora nel cervello di Chiara. Cioè voglio passare un'ora nel suo mondo. È bellissimo. È veramente stupendo. La neve e le renne. La neve e le renne, bellissimo. Questo è il mio unico desiderio della vita. Cioè passare un'ora lì dentro e capire cosa c'è, quanta roba c'è. Ma poi è strano perché c'è Francesca Fuso che non è, che è parente, ma non ha lo stesso cognome. Incredibile. Ma no, non è cosa. Ma chi c'è dietro? Cioè, sta diventando un ufficio anagrafe praticamente, non un'intervista. Poi c'è, allora, quindi Castelli imparentata ma non con lo stesso cognome, imparentata alla larga. Alla larga, ok. È amoroso del cugino. Ok, però c'è certo. Angela Gastalli. Sì. Gastalli. Un'amica d'infanzia. Sì. C'è Milena Leorato, una giocatrice di serie D di pallavolo. Sì. Basta. Ah, ok. C'è l'unica cosa bella della sua vita è che gioca in serie D. Poi è una bruttissima persona. Ha fidanzato con un romano. Un romano del Roma. Sì. Un romano del Roma. Beh, meno male che non è un romano di Napoli, perché sennò sarebbe stato strano. Un romano di Roma. E dopo Claudia Spezie. È la mia collega da Soave. Non posso dire altro. No, non può dire altro, anche perché finora non ha detto nulla, e quindi è giusto che almeno stia un po' nell'anonimato. Grazie a tutti amici per essere stati in diretta con noi. Sì, ha deciso di chiudere l'intervista. No, perché si sono accese le luci. Le ha accese lei, guarda. Che... No, allora ritiro. Adesso ricomincia l'intervista, quindi, perché sono metà spente le luci. Ok, vuoi, no, beh, a parte che siamo quasi in chiusura, vuoi dire qualcosa? Vuoi mandare un messaggio? No. Visto che finora che finora non abbiamo detto cose, quindi è giusto che mantenere un po' di privato. Manteniamo a riservo, giusto, giusto. Ok, ragazzi, volete dire voi qualcosa a lei, magari qualcuno di voi? No, non fate a spintoni, non spingetevi. Questa notte non devi vomitare. Ti vomiterò addosso. Chiara, Chiara, ti vogliamo bene lo stesso, anche se sei così. Franci. Bello, Franci. Bello. Se Brent non è lo stesso cognome. Che bellissimo, è stupendo. Cioè, ormai vi cataloga così. Cioè, per parenti, non parenti, cognome, non cognome, stesso cognome. Cioè, non avete identità proprie, avete dei cognomi associati a delle parentele, in sostanza, no? Quindi è bellissimo, è veramente bello. Bene, bene. Allora, quello di cui sono certo è che sarà una bella festa, quella del matrimonio, perché se questa è la protagonista, non voglio immaginare cosa possa succedere, ma sicuramente si divertiranno, questo è certo. Però io volevo fare anche una menzione speciale, perché mi è rimasto nel cuore, visto che non è entrato qui, alla vostra damigella, l'unico ragazzo del gruppo, no, che me l'hai detto prima, no, cioè non è scappato, non devi occupare, è lì, è appena fuori, però mi sembrava giusto menzionarlo in radio, perché all'interno di queste 18-19 ragazze c'era un ragazzo che Chiara mi ha definito essere la damigella del gruppo, quindi ci tenevo che lo salutassi, insomma, che dicessi come mai si trova qui lui. Pat, ti amiamo, lui si trova con noi perché abbiamo tutti quanti una cosa in comune. Che non è il cognome a questo punto, perché già ce ne sono 5 diverse. Non è il cognome, mi dispiace che non sia dentro con noi, però adesso ne andremo a cantare una canzone insieme. È giusto, lo unite, però ecco, dicevo che ci tenevo a salutarlo, perché un grazie, ragazzo in un gruppo di 20 è un eroe. Ci vediamo tra un minuto. Un minuto esatto, quindi mi devo chiudere perché ho un solo minuto prima che Chiara vada a risalutare il suo amico. Non mi resta altro che augurarle tantissima fortuna e buon divertimento, e auguri, ecco, per la sua festa, e grazie ragazze per aver condiviso con noi questa bella serata. Grazie mille, a presto, ciao.